Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Allora, sono le 7:18 minuti e siamo pronti per la punta a leggere i giornali nello spazio di rassegna stampa di 24 mattino. Siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, cadono i fogli. Siamo anche in diretta sulla nostra pagina di Radio 24, radio24.it, e sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video, eh? E allora, siamo pettinati abbastanza? Quello mai. Allora andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Se ne va maggio, mercoledì 31, con le aperture. Beh, le aperture più gettonate sono ovviamente la legge elettorale, ma non solo. Per esempio, il Sole 24 Ore apre sulla vicenda Ilva, il piano per la nuova Ilva presentato dal ministro Calenda ai sindacati, il progetto ArcelorMittal Marcegaglia, che prevede 5-6 mila esuberi, e dunque i metalmeccanici rispondono: sono dati inaccettabili. Poi, legge elettorale, l'accordo c'è, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, patto PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, subito legge e voto. La Stampa, Renzi, il candidato premier sarò io. Avvenire, la legge elettorale sotto l'ombrellone. Il Messaggero, sistema tedesco, a luglio è legge. Mentre Sbarrati è il titolo del giorno, ci sono alcune persone politiche, personaggi politici, D'Alema, Alfano, Bersani, Meloni, che sono sbarrati, nel senso che con questo sbarramento al 5% rischiano di star fuori dal Parlamento. Poi, per il giornale, da Napolitano a Saviano tutti complici di Fini, l'apertura del giornale è questa: la verità ancora su Fini. Fini fece fuori il ministro Tremonti, poi aprì le porte al gioco d'azzardo. Questo è il titolo di prima pagina. Torna l'Ilva con il titolo sul Manifesto: ricatto d'acciaio, almeno 5.000 esuberi all'Ilva di Taranto, lo prevedono i piani industriali delle due cordate candidate a rilevare lo stabilimento siderurgico. Voglio però partire dall'apertura del Fatto Quotidiano. Numeri, soldi, soldi, soldi nostri ovviamente. Il Fatto Quotidiano racconta la cuccagna dei 40 milioni in Unione Europea fatti sparire dagli eurodeputati. Sono i fondi per costi di un ufficio o delle attività di rappresentanza nel collegio di elezione. Soldi che sono regolati da norme poco chiare. Si tratta esattamente l'indennità per le spese generali, ISG. Chi non vorrebbe avere una bella... Tu vorresti avere, caro Peter Bescapè, un'indennità per le spese generali? Sappiate che ogni eurodeputato ha 4.342 euro a copertura dei costi di un ufficio e delle attività di rappresentanza nel territorio di elezione, ma senza controlli, eh? Cioè non è che deve presentare, non è che deve aprire una sede per forza per pagarsi l'ufficio. Riceve questi soldi per pagarsi l'ufficio comunque, senza rendicontazione. E allora il Fatto Quotidiano è andato a chiedere ai 73 eurodeputati italiani una rendicontazione, visto che non sono tenuti a darla al Parlamento europeo, almeno la diano alla stampa. E risultato, Guia Baggi e Lorenzo Di Pietro raccontano a pagina 2-3, solo 10 eurodeputati su 73 rispondono sulle loro spese. Ripeto, si tratta di 4.342 euro al mese che ricevono per costi di ufficio e attività di rappresentanza. Non ci sono obblighi di rendicontazione. E allora eccolo qua. Risponde per esempio Antonio Tajani, presidente del Parlamento, fa sapere di non avere un ufficio in Italia e di gestire il fondo in linea con il regolamento. Questa è la risposta. Di più non è data a sapere. Della Lega Nord, Mara Bizzotto è la sola a pubblicare l'indirizzo di un ufficio locale. I deputati del Carroccio sono tra coloro che hanno votato per gli obblighi di rendiconto e controllo. Questo va detto per onestà, lo scrive il Fatto Quotidiano. Non risponde Gianni Pittella del PD. Non è uno qualsiasi, spiega un assistente. No, infatti è il presidente del gruppo europeo dei socialisti e democratici, che ha conteso a Tajani lo scranno più alto del Parlamento europeo e dunque dovrebbe avere il massimo della trasparenza. Poi, 12 deputati del PD su 29 danno riferimenti su dove trovarle in Italia. In 4 usano come punto d'appoggio la sede del Parlamento europeo in via 4 novembre 149 a Roma. Ne usufruiscono Silvia Costa, David Sassoli, utilizzo di spazi gratuito. Oppure stessa sede per Enrico Gasbarra, ma chiamiamo un fantasma, nessuno risponde ai telefoni dei suoi uffici. E così via, ci sono solo alcuni eurodeputati che giustificano questa cifra di 4.342 euro al mese. Solo 10 hanno dato informazioni sull'utilizzo delle indennità per spese di rappresentanza. Ci sono... Marco anche, oltre ad alcuni già citati, Marco Affronte, ex grillino passata ai Verdi, Barbara Spinelli, Lista Tsipras, Sergio Ferrati, la civatiana Ellie Schlein, si aggiungono Curzio Maltese, Leonora Florenza, Pier Nicola Pedicini del Movimento 5 Stelle. Appena 3 gli eurodeputati che tengono una rendicontazione pubblica delle indennità che ricevono. Vabbè, oh, questi sono, come dire, questa è l'inchiesta che trovate a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, che racconta come una rendicontazione di soldi non ci deve essere per l'Europarlamento. Il Fatto Quotidiano è andato a chiedere conto a questi eurodeputati, alcuni rispondono, la maggior parte no. A proposito di soldi, c'è una polemica nel mondo dei teatri, perché, come raccontava ieri Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, grazie a un emendamento Luca Barbareschi ha ottenuto, il teatro che lui dirige, l'Eliseo di Via Nazionale a Roma, ha ottenuto nella manovra un finanziamento di 8 milioni di euro. E beh, chiaramente gli altri teatri sono insorti. Fondi ad personam all'Eliseo di Barbareschi, i teatri italiani insorgono. Anna Bandettini dedica una pagina a 37 di Repubblica. Per primi sono stati oltre 40 teatri a scrivere una lettera al ministro Padoan dove si parla di concorrenza sleale. 10 domande per chiedere perché lo Stato investe fondi pubblici per uno spazio privato che in soli 2 anni presenta una perdita. Ancora più dura la lettera dell'Associazione Generale dello Spettacolo, AGIS, e di 20 associazioni di categoria, di 300 operatori che parlano di atto legislativo iniquo e inopportuno. Insomma, una raffica di proteste, le dimissioni in blocco della Consulta dello Spettacolo. Si scuote così il teatro italiano di fronte alla decisione di incardinare nella manovrina approvata alla Camera un sostanzioso benefit per il Teatro Eliseo di Roma, diretto da Luca Barbareschi, da 4 milioni del 2017 e 4 milioni del 2018. 8 milioni, che permetterebbero, tra l'altro, secondo indiscrezioni non confermate, a Barbareschi di acquistare l'edificio del teatro e fare un'operazione immobiliare con soldi pubblici, anche se di questo si parla di voci. Barbareschi si difende. Raggiunto dal Fatto Quotidiano, respinge le accuse. Intanto inizia l'intervista con Camilla Tagliabue a pagina 7 dicendo «Non ho voglia di parlare di nulla». Dico solo questo, sono molto felice che esistano persone responsabili in questo paese che hanno aiutato a salvare il Teatro Eliseo. Ringrazio tutti i teatri di rilevante interesse culturale di cui l'Eliseo fa parte, che hanno telefonato per complimentarsi. Dopodiché, se ci sono dei cinema teatro peracottari che vanno in giro a lamentarsi, beh, oltretutto ha mandato una lettera a Padoan in cui citano i teatri riuniti, cosa per cui i teatri uniti di Servillo li hanno diffidati dal citarli. Siamo alla barzelletta. Senta, Barbareschi, c'è anche una lettera dell'AGIS e di altre associazioni che annunciano dimissioni in massa dalla consulta per lo spettacolo del Ministero. Ma magari si dimettesse il presidente dell'AGIS Fontana, farebbe un favore a tutti. A parte lo sfogo, Non si deve dimettere, però dimentica una cosa, che la fondazione che riunisce i teatri nazionali, Platea, in un verbale scritto ha applaudito l'emendamento all'Eliseo. La domanda è, quando una nave affonda, non siete contenti che qualcuno ha trovato una scialuppa per salvare la gente e farla lavorare? E va bene, Barbareschi dice non hanno finanziato me ma un polo di eccellenza e si difende così. E va bene, soldi al Teatro Eliseo. Oh, invece, che ne pensate di questa iniziativa del sindaco di Firenze, Nardella? Ieri raccontano i giornali, in un'intervista, ha detto questo. Basta i bivacchi di turisti. Basta. Non se ne può più. Un problema che hanno le grandi città d'arte, anche Venezia, insomma, si confrontano con migliaia, centinaia di migliaia, milioni di turisti all'anno, che bivaccano, mangiano panini, a volte sporcano, quelli meno incivili non sporcano, comunque usufruiscono anche delle bellezze delle città italiane, anche dei servizi, e quindi portano certamente soldi, però portano con sé anche dei fastidi. E allora, la sfida di Firenze ultima è questa: marciapiedi bagnati contro i turisti che bivaccano. Cioè il concetto è questo: vuoi bivaccare sul sagrato di una chiesa? Ti ritrovi un bel culone bagnato da portare in giro a tutto. Cioè bagnano apposta, apposta. Il sindaco di Firenze dice bisogna bagnare apposta l'asfalto. Così se uno vuole bivaccare sgranocchiando patatine e sbevacchiando birra, vino e Coca-Cola, si ritrova il lato B da portare bello inzaccherato in giro per il resto della giornata, che magari per un turista che va in giro 6-7 ore e cammina non è la cosa più comoda. E che ne pensate? La sfida di Firenze, una pagina sul Corriere della Sera: marciapiedi bagnati contro i turisti che bivaccano. È la nuova idea del sindaco di Firenze, Nardella. Va bene, siamo all'articolo che mi fa storia della giornata, e torniamo sulla vicenda tragica di questo povero bambino morto per, pare, per un'otite curata male. Cosa mi fa pensare, e racconta Roberto Damiani, il medico omeopata che è accusato, Massimiliano Mecozzi, è tornato al lavoro. Ma guardate, c'è sempre da non guardare il dito, ma da guardare la luna. Allora il dito, e tutti puntano il dito su questo medico che adesso dovrà sottostare forse a un processo, un procedimento giudiziario, oltre che a un procedimento dell'ordine, disciplinare dell'ordine. Roberto Damiani racconta, ha cambiato il cellulare, noi lo cerchiamo, ma lei è di nuovo al lavoro. Certo, di cosa ha bisogno? Va a farle qualche domanda. Ah, lei non è un paziente. E mette giù. Ecco, per me non è questo il dito, ma la luna, e cioè la notizia, sono i 3.000 pazienti che ha. Le famiglie che gli affidano i bambini e che dicono mai in un ospedale, mai, mai un medicinale. Lui sì che guarisce, mai dal medico Andrei, da lui sì, da un medico di base, da un medico pediatra, da un medico... No, cattivi! Cattivi quelli, cattivi. Ecco, questa è la notizia. Chiama 3.000 pazienti e eccole qui le testimonianze. Non credo per nulla alle accuse contro il dottor Mecozzi. Lui mi ha guarito, gli altri no. Avevo attacchi di panico e con lui sono passati. Il medico di famiglia, non so neanche chi sia. La madre di questa testimonianza: soffrivo di asma, non camminavo più. Ora mi muovo, vado dove mi pare, grazie a lui, non agli altri. Poi si scopre, racconta Il Giorno, che già in passato c'era stato un caso molto limite. Una puntura d'ape per un bambino, curato dal dottor Mecozzi, che dice guarirà, non andare al pronto soccorso. Al quarto giorno la madre porta il bambino in ospedale a Pesaro con la gamba quasi in cancrena. I medici salvano con una terapia d'urto antibiotica la gamba a questo bambino. Poi soprassiedono sulle denunce eventuali al dottor Mecozzi. Questa donna fortunatamente poi dice non è più andata da lui, non ha più portato il bambino dal dottor Mecozzi. Quindi la notizia non è che lui sia già al lavoro. La notizia, meditate, è sulle 3.000 persone che gli affidano i bambini. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il nuovo allenatore dell'Inter, dell'informazione. Tanto fare l'allenatore dell'Inter è una cosa che prima o poi toccherà a tutti. Effettivamente. Potrei fare l'allenatore dell'Inter per farli vincere sicuramente, con lo scopo di farli vincere tantissimo. Va bene, dai. Allora, signori, la legge elettorale. Ci siamo. Paginate, paginate. Oggi le prime 7-8 pagine di alcuni giornali sono pubblicità e legge elettorale. Questo è il menù che vi tocca. Allora, ieri la direzione del PD, ci sono tantissimi articoli, quasi tutti uguali, che raccontano appunto di un Renzi che dice non è la migliore legge elettorale, non è quella che volevamo, ma respinge anche questa idea del andare a votare come minaccia alla democrazia, perché Renzi dice ma come, fa un po' sorridere sentir dire che è una minaccia alla democrazia andare a votare. Il premier Gentiloni, come racconta Marco Galluzzo a pagina 2 del Corriere della Sera, non ne fa un dramma, ribadisce il mantra ai suoi primi giorni: l'esecutivo in carica dura fin quando ha la fiducia del Parlamento. Guardo con rispetto al dibattito sulla legge elettorale, confermo che il governo è nella pienezza dei poteri, ha impegni in corso che intende mantenere. Alfano è infuriato con Renzi, l'accordo sarebbe comunque raggiunto. Legge elettorale entro il 7 luglio e poi ovviamente bisogna trovare qualche elemento per fare cadere la fiducia al governo, creare una crisi di governo, eccetera. Insomma, il teatrino della politica si è mosso. Monica Guerzoni racconta a pagina 3 del Corriere della Sera le ultime tensioni, poi il sì e ora Renzi parte in treno e comincia la sua campagna elettorale, trolley e treno, per toccare tutte le regioni e le province italiane. La destinazione che il segretario del PD sogna di raggiungere tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno è il piano nobile di Palazzo Chigi. Ovviamente, tornare al potere. Arrabbiatissimo è Alfano. Alfano è infuriato. È infuriato con Renzi perché si sente tradito. Questa frase è un serial killer che avrebbe detto ai suoi collaboratori, racconta Tommaso Ciriaco di Repubblica che anche Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, è infuriata, sbatte i pugni sul tavolo. Quando lo fa anche Alfano resta bocca aperta, dice la Lorenzin: Renzi ci ha imbrogliato, è un cinico, ci aveva promesso la soglia del 3% ma voleva in cambio la crisi a giugno. E Alfano invece dice anche lui: Matteo ci ha tradito, al Senato lo faremo impazzire, la battaglia sarà tutta contro di lui. Cioè, voi capite, siamo entrati in questo piano inclinato verso le elezioni, il tutto nonostante ci siano situazioni economiche, finanziarie difficili, il debito, però si è deciso in 4-4-8 senza neanche vedersi i leader politici, senza neanche vedersi. Hanno deciso che bisogna andare a votare e quindi legge elettorale in 4-4-8 entro il 7 luglio, tedesca ma un po' all'italiana, tedesca con qualche spolveratina e spruzzatina di italiano qua e là per renderla un po' incomprensibile e un po' più complicata, e via, si va a votare con la certezza di non avere una sicurezza una volta che si va a votare di chi governerà, che poi era il contrario di quello che ha sempre detto Renzi, cioè ci vuole una legge elettorale in cui si sa a sera chi governerà. Ecco, questa è esattamente la legge elettorale contraria, che risponde esattamente al contrario di questo principio. Francesco Manacorda racconta, pagina 3 di Repubblica, banche, crescita e lavoro, il pericolo per l'economia è finire travolta dalle urne. Una ripresa ancora zoppa, gli incendi delle crisi bancarie che invece di estinguersi ripartono, il rischio della clausola di salvaguardia che farebbe scattare l'IVA maggiorata, ma qui, aperta parentesi, anche il Messaggero oggi torna su questo decreto che il governo farà per rinviare un po' l'aumento, lo scatto delle clausole di salvaguardia da gennaio ad aprile, quindi al prossimo governo. E poi troppe riforme in settore chiave dell'economia, dal lavoro alla concorrenza, di cui si sono perse tracce nella nebbia del dibattito politico, potrebbero semplicemente scomparire dai radar, riforme senza le quali si rischia di perdere la ripresa che si affaccia in Europa. Tanto che Repubblica mette questa frase mette questa frase, questa linea del ministro Padoan a pagina 2, una linea un po' preoccupata e preoccupante. Attenzione al giudizio dei mercati, lo spauracchio, il timore dei mercati, i timori di Padoan per il voto. Pagina 2 di Repubblica, Roberto Petrini. Padoan, senza alcun riferimento diretto, ha fatto capire che ascoltava che l'elezione ha molte controindicazioni. Del resto, più volte, nelle ultime settimane, a ogni domanda sul voto aveva replicato: la legislatura scade a febbraio del prossimo anno. Sarà davvero così? A giudicare dai rumors e da queste accelerazioni, mica tanto. Allora, troverete paginate sulla legge elettorale, poi giustamente uno va in apertura del Sole 24 Ore e trova per esempio il piano per la nuova ILVA presentato dal ministro Calenda ai sindacati, che prevede se ci sarà l'acquisto della cordata ArcelorMittal Marcegaglia, cordata vincente nella gara per rilevare l'ILVA, prevede 5-6 mila esuberi, rilanciando ovviamente la produzione, tanto che i metalmeccanici dicono i tagli sono inaccettabili. Allora io vi chiedo, tra l'altro, cosa impatta di più in questo momento a livello sociale, soprattutto a Taranto e dintorni, non solo a Taranto, questa idea, cioè l'idea del rilancio della produzione a fronte di 5-6 mila esuberi, o il dibattito sulla legge elettorale alla tedesca con spruzzatina di zucchero velato all'italiana? Leggete Matteo Meneghello e Giorgio Pogliotti tutti i dettagli dell'ILVA che riparte con questo nodo degli esuberi, le proteste su Repubblica, il vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, che dice: tolgono la speranza a Taranto, intervistato da Giuliano Foschini. Io sto dicendo che questa non è una normale vendita di fabbrica. Il punto di partenza sono le parole del Papa all'ILVA di Genova, parole per le quali sono grato, quando dice: non reddito per tutti ma lavoro per tutti. Ma questo è il dibattito che c'è e che forse davvero impatta un po' di più sugli italiani, ma non lo so, forse Mauro Meazza mi sbaglio, chi lo sa. Ma caro Alessandro Milan, lasciamoci con questa domanda, anzi te ne faccio un'altra. Fammi un'altra. Ad esempio, secondo te impatta di più, non so cosa, o la manovrina? Giusto per dire. Perché, per dire, nella manovrina ci sono quelle cosucce tipo gli studi di settore, i voucher che ritornano, la web tax sperimentale, eccetera, eccetera. E oggi è una giornata, dillo tu per favore. Dillo decisiva, tu quelle... signori! No, ma per davvero, perché si vota la fiducia sul testo uscito dalla commissione, quindi è effettivamente una giornata decisiva. Tra l'altro poi impatterà sicuramente il 16 di giugno il pagamento di IMU e TASI, tanto per dire, al punto che noi oggi con il Sole 24 Ore ti diamo anche un focus, uno speciale di 16 pagine, così ti prepari al pagamento. Tu vivi in un castello per caso? Mi sembrava che tu vivessi in un castello. Castelletto. In un castelletto, va bene, verifica per favore sul nostro focus se devi pagare IMU e TASI, controlla lì. E poi ti vorrei fare una domandina. E siamo se a due. Una cosa, stai attento però. C'è un pagamento che tu devi fare in rate mensili. Sì. Mi segui? Ecco, se la prima rata mensile la devi pagare il 31 luglio, quando devi pagare la seconda rata? Busca. Non so, primo agosto? No. Ma no, il 31 luglio sempre, cioè lo stesso giorno. Ma perché? Perché, guarda, è complicato da spiegare, ma lo spieghiamo oggi su norme e tributi. Ed è quello che succede, che si prepara appunto per il 31 luglio dell'IRPEF, di quelli non con partita IVA. E la prima rata scade il 31 luglio e la seconda mensile il 31 luglio. E così non ci sbagliamo, paghiamo due rate e ci togliamo il pensiero. Naturalmente su norme e tributi che tu leggerai come sempre. Doviziosamente. Vabbè, insomma, quello che è, trovi anche di nuovo i particolari su questa mini proroga IVA, già ti ho ricordato ieri, che è una cosa che sta facendo molto incazzare i professionisti. E poi ti inviterei anche, molte altre cose ti vorrei dire, ma il tempo è tiranno, e quindi ti inviterei anche a meditare sulle pagine di Imprese e Territori, laddove annunciamo che in banca ci sarà questo contratto ibrido, cioè un po' lavoratore dipendente, un po' lavoratore autonomo. È una cosa, un'iniziativa particolare di una importante banca italiana, ma tutti i particolari su Imprese e Territori. Alessandro Milan, il Sancho Panza dell'informazione. Vabbè, c'è anche questa. Allora, la manovrina abbiamo detto. Vediamo un attimo l'attualità internazionale. C'è sempre grande rissa tra gli Stati Uniti e la Germania. Per quel che riguarda invece la lotta al terrorismo internazionale, voglio segnalarvi due articoli. Il primo è un arresto in Germania, di cui racconta il Corriere della Sera. Pronto a farsi esplodere, 17enne arrestato in Germania. Sembra che sia il reclutamento di ragazze e ragazzi giovanissimi da preparare al martirio, uno degli obiettivi del momento dei terroristi dell'ISIS. Ieri la polizia tedesca ha arrestato un 17enne siriano entrato in Germania illegalmente come rifugiato nel 2015 e pare stesse preparando un attentato a Berlino nel quale si sarebbe fatto esplodere. L'arresto è avvenuto nel Brandeburgo, non lontano dalla capitale tedesca, e il ragazzo che aveva chiesto asilo era alloggiato in un centro per minori non accompagnati. Lì si sarebbe radicalizzato. Sarebbe stato individuato grazie alle forze dell'ordine che controllano internet e social network. In un messaggio su WhatsApp avrebbe scritto alla madre dell'attentato che stava preparando e l'avrebbe salutata dicendola che aveva aderito alla guerra santa contro l'Occidente. E insomma, sul Corriere della Sera. Tra l'altro, Cristiana Mangani sul Messaggero racconta invece di una interessantissima scoperta fatta a Mosul in una casa, una volta che sono stati conquistate alcune postazioni controllate dell'ISIS nella zona est della città, è stata trovata una lista che viene pubblicata anche in foto, documenti, trovati a Mosul elenchi con le generalità dei miliziani stranieri dell'ISIS. Sono migliaia, tra loro ci sono molti europei. Foreign Fighters, ecco le liste con i nomi. È stato trovato in una casa di Mosul qualche mese fa, i militari lo hanno recuperato dopo un blitz. È un documento considerato molto importante, è una lunga lista di nomi dei componenti della legione straniera che combatte sotto la bandiera del califfato. Un esercito di circa 40.000 uomini, dei quali 15-20.000 europei o di ritorno dall'Europa. Un centinaio di questi provenienti dall'Italia. Beh, interessante, perché è l'elenco dei cosiddetti foreign fighters, quelli che vanno a combattere a fianco dell'ISIS, partendo anche dal nostro paese. È stato trovato a Mosul. Allora, io non ho letto ieri con grande attenzione l'articolo di Umberto Folena su Avvenire, che racconta di come sia una bufala questa del Blue Whale, che è semplicemente un grande disagio giovanile nel quale viene appiccicata questa parola, per cui anche parlarne in continuazione davvero non so se si fa un bel servizio anche per i nostri ragazzi, che poi si fanno condizionare e esprimono il disagio in vari modi, e poi è la moda chiamarlo Blue Whale e lo chiamano Blue Whale. Comunque sui giornali c'è un'intervista, ve la segnalo, a Ciro Cascone, procuratore del Tribunale per i minorenni, sul Corriere della Sera parla di questo nuovo fenomeno. In tutto questo c'è un'ultima verità sulla morte di Diana, di Lady Di. Ormai sono passati vari anni, era il 31 agosto del 1997, Diana Spencer morì in un incidente stradale con il compagno Dodi Al-Fayed. L'ultima verità pubblicata in un libro, quell'auto era da rottamare, cioè racconta di una Mercedes che aveva subito un gravissimo incidente, che doveva essere rottamata, che invece è stata ripristinata in maniera un po' posticcia e quindi unita all'alcol bevuto dall'autista, unita a questa vicenda della macchina di livello e di affidabilità scarsa, ecco che la verità ultima sarebbe sulla fine di Diana, l'auto da rottamare che non ha tenuto la velocità. Va bene, siete seguaci del metodo Kanban? Kanban? Tu, Lorenzo Nespoli, che sei entrato così facendo irruzione in studio e filmandomi per mandarmi in diretta sulla mia pagina Facebook pubblica, sei, non sbirciare come a scuola, sai cos'è il metodo Kanban? Viene dal Giappone, ovviamente, come si può intuire onomatopeicamente parlando. È il metodo dei bigliettini sulla lavagna, delle cose da fare, delle cose fatte, delle cose in corso, i post-it, tac, tac, tac, tac. Voi siete quelli che mettete parrucchiere, spesa, messo di lì, fatte, panettiere, tasse da pagare, soldi da dare ad Alessandro Milan, poi vi do l'Iban, tac, da fare, in corso. Tac, tac, tac, tac. Mettete questi. Sono stili di vita. Appuntare le cose fatte, appuntare le cose in corso. È il metodo Kanban nato in Giappone che spopola nel mondo. Repubblica dedica una pagina a questo. I bigliettini sulla lavagna per gestire gli impegni. Ora possiamo davvero essere tutti multitasking, cioè tutti donne, per riuscire a fare con il metodo Kanban questa cosa. Caterina Pasolini racconta su Repubblica questo nuovo fenomeno. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo una pagina di Libero. Tiziana La Pelosa ci racconta di tutti i cuochi, tutti gli chef che dalla padella vanno alla libreria, cioè da Cannavacciuolo alle Benedette alla Parodi, tutti coloro a Valterlongo che dai fornelli scrivono un libro. Ma chi se ne frega!